I rapporti di Cinzia con lo Squire si erano interrotti dopo che lei aveva fatto visita a Hamley Hall l'autunno precedente. Quella volta l'uomo aveva dimostrato verso tutte loro buona educazione e spirito di ospitalità e si era lasciato incantare da Cinzia più di quanto gli piacesse ammettere con se stesso quando ripensava a quell'occasione. Di certo è una bella ragazza, pensava, si comporta bene, le piace stare a sentire i vecchi, il che è un buon segno. Ma la madama sua madre a me non piace ed è pur sempre sua madre e la ragazza è sua figlia. Però l'ho parlato 1 o 2 volte come non avrei gradito che la nostra piccola Fania avesse fatto, se a Dio fosse piaciuto di lasciarla in vita. No, non è il modo corretto e potrà essere un po' fuori moda, ma a me la correttezza piace. E poi ha ripreso possesso di me, per così dire, e la piccola Molly ci ha dovuta correre dietro per i sentieri del giardino, che sono troppo stretti per 3 persone, e sembrava proprio un cagnolino a 4 zampe. E l'altra era tutta presa ad ascoltarmi, non si è mai girata per dire una parola a Molly. Non voglio dire che le due non si vogliano bene, e questo è in favore della fidanzata di Roger, ed è molto ingrato da parte mia andare a cercare difetti in una ragazza che è stata così gentile con me e si è messa così carinamente a pendere dalle mie labbra. Beh, tante cose possono succedere in 2 anni e il ragazzo non mi dice niente in proposito. Io farò il misterioso quanto lui e non mi occuperò della cosa fino a che non tornerà a casa e me ne parlerà di persona. Così, sebbene lo Squire ricevesse sempre deliziato i biglietti che Cinzia gli mandava ogni volta che riceveva notizie da Roger, e benché queste sue attenzioni stessero sciogliendo il cuore che l'uomo tentava di indurire, egli si limitava a scrivere le brevissime frasi di riconoscenza. Il significato delle sue parole era intenso, ma l'espressione formale, e non ci pensava su molto e si riteneva soddisfatta di svolgere le gentilezze che suscitavano tali risposte. Ma sua madre le criticava e ci rimuginava sopra, pensava di aver colpito nel segno quando nella sua mente aveva deciso che quello stile era parecchio retrogrado e che lo Squire, la sua casa, i suoi mobili, tutto aveva bisogno di una rispolverata e di una ripulita che di sicuro avrebbe ricevuto quando non le garbava completare distintamente la frase, per quanto continuasse a ripetersi che non c'era niente di male. Ma torniamo allo Squire. Visto che era molto occupato, aveva recuperato la salute di un tempo e che un po' della sua vecchia e un po' della sua vecchia garrulità. Se Osborne gli fosse venuto incontro a metà strada, è probabile che l'antico legame tra padre e figlio si sarebbe rinnovato, ma o Osborne era veramente malato, o aveva preso abitudini da malato e non faceva alcun tentativo di rianimarsi. Se suo padre insisteva che uscisse, anzi un paio di volte aveva ingoiato l'orgoglio e aveva chiesto a Osborne di accompagnarlo, Osborne andava alla finestra e trovava che c'era una nuvoletta o un alito di vento e li prendeva come pretesto per stare a casa in mezzo ai suoi libri. Faceva 2 passi lungo il lato della casa esposto al sole, in un modo che lo Squire considerava indolente e femmineo. Però, se c'era il progetto di andare via, cosa che in quel periodo capitava piuttosto di frequente, allora egli era tutto pieno di energia e di dinamismo. Le nuvole in cielo, il vento da est, l'umidità dell'aria. Allora non avevano alcuna importanza per lui, e giacché lo Squire non conosceva la vera causa della sua ansia di partire, si era messo in testa che tutto ciò dipendeva dal fatto che Osborne odiava Hamley e la monotonia della compagnia di suo padre. È stato un errore, pensava lo Squire. Ora lo vedo. Non sono mai stato bravo a farmi degli amici. Ho sempre pensato che quei tipi di Oxford e Cambridge arricciassero il naso davanti a me perché ero uno stupidotto di campagna. E allora io non ho voluto avere niente a che fare con loro. Ma quando i ragazzi sono andati a Rugby e a Cambridge, avrei dovuto permettere che si circondassero dei loro amici, anche se questi forse mi avrebbero guardato dall'alto in basso. Ma era la cosa peggiore che potessero farmi. E adesso quei pochi amici che avevo li ho persi, perché sono morti o per altre ragioni o per un giovane dura, lo riconosco. Però lui potrebbe provare a non dimostrarmelo così chiaramente. Ci sto facendo l'abitudine, ma a volte mi punge sul vivo e sì, pensare che una volta voleva tanto bene al suo papà. Se solo riuscissi a bonificare la terra, gli farei avere una rendita e lo lascerei andare a Londra o dove vuole. Forse questa volta gli andrebbe meglio, o potrebbe andare in rovina del tutto. Magari gli farebbe pensare un po' più di affetto al vecchio padre che sta a casa. Mi piacerebbe che lo facesse, sì. È possibile che Osborne si sarebbe lasciato indurre a rivelare al padre il suo matrimonio durante un loro lungo tête-à-tête, se lo Squire, intempestivamente, non gli avesse confidato del fidanzamento di Roger con Cinzia. Era una piovosa domenica pomeriggio e padre e figlio sedevano insieme nel grande salotto vuoto. Osborne non era stato in chiesa quella mattina, lo Squire sì, e ora si stava sforzando di leggere uno dei sermoni di Blair. Avevano mangiato presto, di domenica era loro abitudine, ma questo fatto, o il sermone o la pioggia che non accennava a smettere, rendevano quel pomeriggio interminabile per lo Squire. Egli si era dato alcune regole non scritte su come comportarsi la domenica: carne fredda, lettura di sermoni, niente fumo fino a che le preghiere serali, meno pensieri possibile sulle condizioni della terra e dei raccolti, e il più rispettabile stanziamento in casa, con i suoi abiti migliori, che si adeguava all'usanza di andare in chiesa due volte e rispondere alla liturgia a voce più alta di quella del sagrestano. Quella domenica era piovuto così incessantemente da fargli saltare la funzione pomeridiana, ma oh, persino dopo il lusso del sonnellino, quanto tempo sembra passare prima che egli vedesse i servitori di Hamley camminare faticosamente verso casa lungo il vialetto fra i campi, un vero corteo di ombrelli. Stava alla finestra da mezz'ora, con le mani in tasca e la bocca che spesso si atteggiava al tradizionale peccato del fischiettare, e altrettante volte veniva riportata a un'espressione di improvvisa gravità, il che risultava 9 volte su 10 in uno sbadiglio. Lo squire guardò in tralice Osborne, che sedeva vicino al fuoco assorto in un libro. Il pover'uomo era come il ragazzino di quella storia, che chiede a tutti gli uccelli e ad ogni animale di venire a giocare con lui. E tutte le volte riceve la stessa risposta seria, e cioè che loro sono troppo occupati per distrazioni così futili. Il padre desiderava che il figlio posasse il libro e parlasse con lui. Tra la pioggia e la noia, con un po' di conversazione avrebbero ingannato il tempo. Ma Osborne, con la schiena rivolta alla finestra presso la quale si trovava lo squire, non si accorse di alcunché e continuò a leggere. Aveva sentito quando Mr. Hamley aveva osservato che era un pomeriggio veramente piovoso, ma non aveva sostenuto il discorso con tutte quelle variazioni di ovvietà cui l'argomento avrebbe potuto dare adito. Bisognava iniziare a parlare di qualcosa di più sensazionale, pensò lo Squire. Gli tornò alla mente la storia tra Roger e Cinzia e, senza pensarci un attimo, esordì: Osborne, voi ne sapete niente di questo legame di Roger? Successo pieno. Osborne abbassò il libro all'istante e si girò verso il padre. Roger? Un legame? No, non ne so nulla, faccio fatica a crederci. Cioè, immagino che sia con. E allora si arrestò. Pensò infatti di non avere alcun diritto di tradire il proprio sospetto, ovvero che si trattasse di Cinzia Kirkpatrick. Sì, però è così. Indovinate con chi? Non che mi piaccia particolarmente, secondo me non è un gran legame, però è una ragazza molto carina e immagino di essere io il primo responsabile. E? È inutile tirare a indovinare, ormai ho cominciato e a questo punto vi dico tutto. È Miss Kirkpatrick, la figliastra di Mr. Gibson, ma attento, non si tratta di un fidanzamento. Mi fa molto piacere, spero che lei lo ricambi. Lo ricambi, beh, per lei è una relazione fin troppo vantaggiosa perché non lo ricambi. Se Roger, quando tornerà a casa, non avrà cambiato idea, sono certo che lei sarà fin troppo felice. Mi domando perché Roger non mi abbia detto nulla, osservò Osborne un po' offeso adesso che iniziava a rifletterci. Non l'ha detto neanche a me, sottolineò lo Squire. È stato Gibson. È venuto qui e mi ha confessato tutto, da uomo d'onore. Io gliel'avevo detto che non volevo che uno di voi due ragazzi sposasse una delle sue figlie. Riconosco che avevo soprattutto paura per voi. Che ci sia accaduto Roger è già abbastanza un guaio e forse alla fine non se ne farà niente. Ma se si fosse trattato di voi, avrei rotto con Gibson e con tutti piuttosto che dare il mio permesso. Così gli ho detto. Vi chiedo scusa se vi interrompo, però una volta per tutte io rivendico il mio diritto a scegliermi la moglie da solo, senza l'ingerenza di nessuno, esclamò Osborne accalorato. E allora? Me la manterrete anche, senza l'ingerenza di nessuno, ecco. Perché da me, ragazzo, non avrete un solo penny, a meno che il vostro matrimonio dia una piccola soddisfazione anche a me, oltre a darne tante a voi. È tutto quello che vi chiedo. Non mi interessa la bellezza, l'intelligenza, il pianoforte, tutta quella roba là. Se Roger sposa la ragazza, ne avremo abbastanza in famiglia. Non mi importa se è un pochino più anziana di voi, ma deve essere di famiglia autolocata e più soldi ci porta, meglio sarà per questo vecchio posto. Lo ripeto, padre. Mia moglie me la scelgo da sola e non ammetto il diritto di nessuno a dettare legge. Bene, bene, ribatté lo squire, arrabbiandosi un po' anche lui. Se in questa faccenda non sono padre, voi non siete figlio. Mettetevi contro di me in ciò a cui tengo e vedrete che saranno guai. Ecco, ma non litighiamo. È domenica pomeriggio intanto ed è peccato. E poi non ho finito la mia storia. Osborne aveva ripreso in mano il suo libro e fingendo di leggere fumava di rabbia. Quasi non lo ripose neppure quando suo padre glielo chiese. Come stavo dicendo, Gibson ha detto, la prima volta che ne abbiamo parlato, che non c'era niente in piedi fra voi quattro e che se ci fosse stato me l'avrebbe fatto sapere. E dopo un po' viene qui e mi racconta questa cosa. Di cosa? Non ho capito, ma quanto in là si è spinta la questione? C'era un tono nella voce di Osborne che allo Square non piacque e gli rispose con una certa collera. Insomma, ve lo sto dicendo! Roger è andato a dichiararsi alla ragazza il giorno che è partito. Dopo essere andato via da qui e mentre aspettava la Empire Hollingford. A volte è sembrato uno stupido Osborne. Posso solo dire che questi dettagli mi suonano del tutto nuovi. Non me li avete menzionati prima, ve l'assicuro. Beh, non mi importa se l'ho fatto o no. Sono sicuro di avervi detto che Roger si era legato a Miss Kirkpatrick, accidenti a lei, e voi avreste dovuto capire tutto il resto, era ovvio. Possibile, replicò educatamente Osborne. Posso chiedere se Miss Kirkpatrick, che mi sembra una ragazza molto a modo, ricambia i sentimenti di Roger? Di corsa, non ho dubbi, rispose lo squire scontroso. Un Hamley di Hamley non è cosa da ottenersi tutti i giorni. Vi dico questo, Osborne. Voi siete l'unico scapolo rimasto sulla piazza e io voglio che risolleviate i destini della famiglia. Non contravvenite a questa mia volontà. Spezzerete davvero il cuore se lo farete. Padre, non parlate così, lo pregò Osborne. Farò tutto ciò che posso per accontentarvi, eccetto l'unica cosa che voglio che voi facciate. Bene, bene. Per ora lasciamo stare. In questo momento il mio matrimonio non è in questione. Non sto bene, non sono nelle condizioni di andare in società, incontrare giovani signore e tutto il resto, anche se avessi voglia di frequentare gente. Presto ne avrete la possibilità. A Dio piacendo, tra un anno o due arriverà più denaro. E per quanto riguarda la vostra salute, beh, come potreste stare bene se vi crogiolate tutto il giorno davanti al fuoco e rifiutate un buon onesto boccale come fosse veleno? Per me lo è, ribatté Osborne languidamente. Giocherellando con il libro come se volesse porre fine alla conversazione e riprendere a leggere. Lo squire vide quel gesto e lo comprese. Bene, concluse. Vado a parlare con Will della povera vecchia Black Bess. È abbastanza domenicale preoccuparsi dei dolori e delle sofferenze di una stupida bestia. Ma dopo che suo padre lasciò la stanza, Osborne non riprese in mano il suo libro. Lo posò sul tavolo accanto a sé. Si lasciò cadere indietro sulla sedia, coprendosi gli occhi con la mano. Il suo stato di salute era tale che egli si affliggeva per molte cose, benché l'ultima a cui pensava fosse la più pericolosa. L'aver nascosto così a lungo al padre il proprio matrimonio rendeva la rivelazione molto, ma molto più difficile di quanto non fosse all'inizio. Senza il supporto di Roger, come avrebbe potuto spiegare tutta una persona così irruenta come lo squire? Come dirgli? Della tentazione delle nozze segrete, della conseguente felicità e me, della sofferenza che era seguita? Osborne, infatti, aveva sofferto e soffriva tremendamente per le circostanze infauste in cui si era cacciato. Non vedeva via d'uscita se non quell'unico colpo violento del quale si sentiva incapace. Così, col cuore affranto, si rivolse di nuovo al suo libro. Tutto sembrava remargli contro e lui non aveva un carattere abbastanza vigoroso per superare gli ostacoli. Il solo passo manifesto che intraprese, dopo ciò che aveva appreso dal padre, fu di recarsi a cavallo fino a Hollingford, nella prima giornata di bel tempo che seguì al momento in cui aveva ricevuto la notizia, per andare a trovare Cinzia e le Gibson. Era da molto che non passava da loro. Il brutto tempo e la debolezza insieme avevano avuto la meglio su di lui. Le trovò tutte intente ai preparativi e alle discussioni sulla visita di Cinzia a Londra. E lei non era affatto di quell'umore sentimentale adatto a corrispondere alle delicate manifestazioni di felicità espresse da Osborne per la gioia del fratello. Anzi, era passato così tanto tempo da allora che Cinzia quasi non si rese conto che per Osborne la notizia era fresca e che il suo primo fervore emotivo non era ancora scemato. Con la testa un po' inclinata, ella stava contemplando l'effetto di un mazzo di nastri, quando il giovane cominciò a dire in un sussurro, e sporgendosi in avanti verso di lei: Cinzia, posso chiamarvi Cinzia adesso, vero? Sono così felice di questa notizia. L'ho appena saputo, ma ne sono così lieto. Ma di che notizia parlate? Lei aveva i suoi sospetti, ma era infastidita dal pensiero che il suo segreto stesse passando da una persona all'altra e a un'altra ancora, fino in effetti a cessare di essere un segreto. Eppure Cinzia sapeva celare la sua irritazione quando voleva. Perché dovreste iniziare a chiamarmi Cinzia adesso? Proseguì con un sorriso. Questa parola terribile mi è già sfuggita dalle labbra in passato, sapete? Quel modo frivolo di ricevere le sue congratulazioni non fece piacere a Osborne, che era in fase sentimentale, e per un minuto egli rimase in silenzio. Poi, quando ebbe finito di far fiocchi ai suoi nastri, la ragazza si girò verso di lui e riprese brevemente a bassa voce, ansiosa di approfittare del fatto che la madre e Molly erano impegnate a parlare tra loro. Penso di poter indovinare perché ora mi fate questo bel discorsetto, ma sapete che non avrebbero dovuto dirvelo. E poi le cose non si sono spinte al punto solenne insomma, di un fidanzamento. Lui non ha voluto. E ora non dirò altro e voi non dovete. Vi prego, ricordate che non dovreste saperlo. È il mio segreto e desidero particolarmente che non se ne parli. Non mi piace che se ne discuta quando l'acqua filtra da un unico piccolo foro. E poi si unì alla conversazione delle altre due, estendendola a tutto il gruppetto. Osborne era piuttosto avvilito dall'insuccesso delle sue congratulazioni. Si era figurato una ragazza malata d'amore che si sfogasse con lui in estasi, lieta di avere un confidente e comprensivo. Conosceva poco il carattere di Cinzia. Più lei si accorgeva che da parte sua ci si aspettava una dimostrazione di emozioni, meno desiderava manifestarle, e i suoi sentimenti erano di solito sottoposti al controllo della sua volontà. Lui aveva fatto uno sforzo per venire a trovarla e ora era abbandonato sulla sedia, esausto e un po' depresso. Ah, povero caro giovanotto, disse Mrs. Gibson, avvicinandosi a lui, dolce e carezzevole. Che aria stanca avete. Prendete un po' d'acqua di Colonia e bagnatevi la fronte. Questo clima primaverile abbatte anche me. Primavera, credo la chiamino gli italiani. Ma mette a dura prova una costituzione delicata, sia per ciò che comporta, sia per i cambiamenti di temperatura. Mi fa sospirare continuamente. Io però sono così sensibile. La cara Lady Kemnor era sempre solita dire che ero come un termometro. Avete sentito che è stata malata? No, rispose Osborne. E non gli interessava neppure. Oh sì, adesso sta meglio, ma la preoccupazione per lei mi ha così provata. Ero trattenuta qui da quelli che sono ovviamente i miei doveri. Ero fuori dalla portata di tutte le notizie e non sapevo cosa la posta mi avrebbe comunicato. Dove si trovava in quel periodo? Chiese Osborne un pochino più solidale. A Spa, così lontano, 3 giorni di viaggio per la posta. Potete immaginare la sofferenza, considerando che ho vissuto con lei per anni, che ero così legata alla famiglia. Ma Lady Harriet, nella sua ultima lettera, ha scritto che speravano sarebbe divenuta più forte che negli ultimi anni, interloquì innocentemente Molly. Sì, Lady Harriet, certo. Chiunque conosca Lady Harriet sa che il suo temperamento è troppo sanguigno perché ci si possa fidare completamente delle sue affermazioni. Tutto sommato, gli estranei spesso sono illusi da Lady Harriet. Così ha la mano da ingannarli, ma non intende neanche la metà di ciò che dice. Speriamo di sì in questo caso, osservò Cinzia secca. Ora sono a Londra e Lady Kemnor non ha sofferto per il viaggio. Così dicono. chiusò Mrs. Gibson, scuotendo il capo e calcando sulla parola dicono. Forse io sono troppo ansiosa, ma vorrei poter vedere e giudicare da me. Sarebbe l'unico modo per placare la mia angoscia. Sto quasi pensando di venire con te, Cinzia, per un giorno o due, in modo da poterla vedere con i miei occhi. Ci penseremo. E tu scriverai a Mr. Kirkpatrick per proporglielo, se decideremo così. Puoi parlargli della mia preoccupazione, e si tratterebbe solo di condividere il letto con te per un paio di notti. Capitolo 40. Molly Gibson respira. Ecco come Mrs. Gibson diede voce la prima volta alla sua intenzione di accompagnare Cinzia a Londra per una visita di qualche giorno. Ella aveva il vizio di rivelare il primo disegno di un nuovo progetto di fronte a una persona estranea alla cerchia familiare. Di conseguenza, gli altri, in caso di disapprovazione, dovevano reprimere le loro emozioni fino a quando non si fossero abituati all'idea. A Molly questa parve una proposta troppo incantevole perché si realizzasse davvero. Non si era mai concessa di riconoscere le limitazioni alle quali era sottoposta in presenza della matrigna, ma tutt'a un tratto se ne rese conto quando il suo cuore danzò all'idea di 3 intere giornate, tali sarebbero state come minimo, di perfetta libertà nei suoi rapporti con il padre. Il ritorno dei vecchi tempi. E i pasti consumati senza quella costante agitazione dovuta ai dettagli del cerimoniale e alle regole di comportamento. Ceneremo con pane e formaggio, mangeremo sulle ginocchia e rimedieremo al fatto di aver dovuto mangiare per tutto questo tempo budini scivolosi usando la forchetta invece del cucchiaio, mettendoci direttamente il coltello in bocca fino a che non ci taglieremo. Papà potrà versare il tè sul piattino se avrà fretta, e se io avrò sete, userò la scodella per i fondi del tè e oh, se potessi procurarmi, comprare, prendere a prestito, rubare un vecchio cavallo. La mia gonna da equitazione grigia non è nuova, ma andrà bene. Sarebbe tutto meraviglioso. Tutto sommato, penso di poter tornare ad essere felice. Per mesi e mesi mi è sembrato come di essere troppo vecchia per provare di nuovo piacere, figuriamoci, felicità. Così la pensava Molly. Però arrossì. Quasi colpevole quando Cinzia, leggendole nella mente, un giorno le disse: Molly, sei proprio contenta di liberarti di noi, eh? Di te? No, Cinzia. Almeno penso di no. Solo se tu sapessi quanto voglio bene a papà e quanto più spesso potevo stare con lui un tempo rispetto a ora. Penso di frequente a quanto dobbiamo sembrare delle intruse. In effetti lo siamo. Io non ti ritengo tale. Tu comunque sei stata una fonte di felicità nuova per me come sorella e prima non avevo idea di quanto potesse essere bello un simile rapporto. Ma la mamma? Chiese Cinzia, un po' con sospetto, un po' con dolore. È la moglie di papà, rispose Molly, calma. Non voglio dire che non sono spesso molto dispiaciuta per il fatto di non essere più in cima ai suoi pensieri, ma fu... Un violento rossore le salì al viso fino a farle bruciare gli occhi ed improvviso si sentì sul punto di piangere. Il salice, il dolore, il conforto sceso lentamente in lei e coloro che l'avevano consolata apparvero tutti vivamente davanti ai suoi occhi. Fu Roger, continuò, guardando Cinzia dopo aver superato la lieta esitazione a menzionare il nome del giovane. Fu Roger a dirmi come avrei dovuto reagire al matrimonio del babbo. Quando all'inizio la notizia mi fece sobbalzare e soffrire. Oh, Cinzia, che grande cosa deve essere avere il suo amore! Cinzia arrossì e apparve lusingata e compiaciuta. Sì, credo di sì. Allo stesso tempo, Molly, temo lui si aspetterà che io sia sempre buona come adesso lui mi immagina. E allora dovrò camminare in punta di piedi per il resto della mia vita. Ma tu sei buona, Cinzia, sottolineò Molly. No, non lo sono. Tu ti sbagli tanto quanto lui e un giorno scadrò nella tua opinione molto velocemente, come ha fatto l'altro giorno l'orologio dell'ingresso quando la molla si è rotta. Penso che lui ti amerà ugualmente, disse Molly. Tu ci riusciresti? Saresti mia amica se a un certo punto saltasse fuori che ho fatto cose molto brutte. Ti ricorderesti di quanto terribilmente difficile è stato per me talvolta agire nel modo giusto? Prese la mano di Molly mentre parlava. Non parleremo della mamma, per il tuo bene, il mio ed anche il suo. Ma ti sarai accorta che lei non è il tipo che sia d'aiuto a una ragazzina con dei buoni consigli o con buona. Oh Molly, tu non sai come io sia stata trascurata proprio nel momento in cui avevo più bisogno di amici. La mamma non lo sa, non può sapere che cosa io sarei potuta diventare se solo fossi caduta in buone mani e sagge. Io lo so però. E per di più, proseguì, improvvisamente vergognosa di quell'insolita manifestazione dei suoi sentimenti. Io tento di non badarci. Questa direi è la cosa peggiore di tutte. Ma se a un certo momento mi mettessi a riflettere seriamente, potrei preoccuparmi fino a morirne. Vorrei poterti aiutare, o almeno poterti capire, disse Molly dopo un minuto o due di triste perplessità. Tu puoi aiutarmi, ribatté Cinzia, cambiando bruscamente atteggiamento. Io so bordare cappellini e creare acconciature, ma in qualche modo le mie mani non riescono a piegare abiti colletti come fanno le tue piccole e agili dita. Vuoi per favore aiutarmi a fare i bagagli? Sarebbe una gentilezza reale e tangibile e non una consolazione sentimentale per i turbamenti del cuore, che dopo tutto sono forse immaginari. In generale, sono le persone che vengono lasciate a casa che nel momento dei saluti si lasciano andare alla depressione. I viaggiatori, per quanto acutamente possano sentire la separazione, nella prima ora successiva al distacco trovano nel cambiamento di scenario qualcosa che addolcisce il rimpianto. Ma Molly quasi danzava per strada, camminando verso casa con il padre dopo aver accompagnato Mrs. Gibson e Cinzia a prendere l'Empire, la carrozza diretta a Londra. Papà, ora, disse, ti avrò tutto per me per una settimana intera. Devi essere molto obbediente. Allora tu non essere tirannica. Camminando così mi farai perdere il fiato e con tutta questa fretta stiamo scansando Mrs. Goodenough. Così attraversarono la strada per andare a parlare con la donna. Abbiamo appena salutato mia moglie e mia figlia, che sono partite per Londra. Mrs. Gibson starà via per una settimana. Povera me a Londra, e solo per una settimana. Insomma, vi ricordo che sono 3 giorni di viaggio. Vi sentirete molto sola, Miss Molly, senza la vostra giovane amica. Sì, rispose Molly, pensando all'improvviso che avrebbe dovuto considerare quell'aspetto della faccenda. Sentirò molto la mancanza di Cinzia. E voi? A Mr. Gibson? Beh, sarà come essere tornato vedovo. Dovete venire a prendere il tè da me una di queste sere. Dobbiamo tentare di rallegrarvi un po' con la nostra compagnia. Facciamo martedì? Nonostante il forte pizzicotto che Molly gli diede al braccio, Mr. Gibson accettò l'invito con grande soddisfazione dell'anziana signora. Papà, come hai potuto buttare via una delle nostre serate? Ne abbiamo solo 6 in tutto e ora sono rimaste 5. E io ho pensato così tanto a tutte le cose che avremmo fatto insieme. Che genere di cose? Oh, non so, tutto ciò che non è raffinato e signorile, spiegò Ray, fissando sornione il viso del padre. Gli occhi di lui scintillarono, ma il resto del suo volto era perfettamente serio. Non mi lascerò corrompere. Con fatica e impegno ho raggiunto un livello di ricercatezza molto alto. Non mi farò trascinare di nuovo giù. Sì che lo farai, papà. Pranzeremo con pane e formaggio oggi stesso. E tu indosserai le ciabatte in salotto tutte le sere che potrai startene tranquillo a casa. Oh, papà, non pensi che potrei cavalcare Nora Creina? Ho cercato la mia vecchia gonna da equitazione grigia e penso che potrei arrangiarmi con quella. E da dove arriverebbe la sella da Amazzone? Di certo, quella vecchia non potrebbe stare su quella grossa giumenta irlandese. Ma io non sono pignola, papà. Penso che in qualche modo farò. Grazie, ma non intendo assolutamente ritornare alla barbarie. Potrà essere una richiesta degenerata, ma preferirei che mia figlia montasse in modo consono. Pensa, cavalcare insieme lungo i sentieri. Insomma, le rose canine devono essere tutte in fiore, e il caprifoglio, il fieno. Come mi piacerebbe rivedere la fattoria Merryman. Papà, lasciami fare una corsa con te, ti prego. Sono certa che potremo organizzarci in qualche modo. E in qualche modo fecero. In qualche modo tutti i desideri di Molly furono realizzati. Quella lieta settimana di vacanza e di felice compagnia con suo padre ebbe un solo ostacolo. Tutti le invitavano per il tè. Erano quasi come due sposi. Il fatto è che gli orari dei pasti che Mrs. Gibson aveva introdotto in casa costituivano un grosso inconveniente nell'organizzazione dei tè di Hollingford. Come si poteva invitare alle 6 per il tè gente che a quell'ora si metteva a tavola? Come fare se costoro rifiutavano torte e tramezzine alle 8:30 a indurre gli altri, che erano veramente affamati, a commettere una volgarità davanti a quegli occhi calmi e sprezzanti? Così, gli inviti ai Gibson a partecipare ai tè di Hollingford si erano interrotti. Mrs. Gibson, il cui obiettivo era infilarsi a forza nell'alta società, aveva reagito a questa esclusione dai ricevimenti più umili con grande serenità. Ma Molly mancava la gentile familiarità delle festicciole alle quali aveva partecipato di tanto in tanto, sin da quando era in grado di ricordare. E sebbene ogni volta in cui le venivano consegnati i biglietti a tre angoli, ella brontolasse un po' per il fatto di perdere l'occasione di un ulteriore tête-à-tête con il padre, era veramente contenta di poter stare con le sue vecchie amiche, come in passato. Miss Browning e Miss Phoebe provavano una pena particolare per lei per questa sua solitudine. Se fosse stato per loro, lei avrebbe cenato lì tutte le sere e Molly dovette andare a trovare molto di frequente per evitare che si offendessero a causa del suo declinare i loro inviti a cena. Mrs. Gibson scrisse al marito due volte durante quella settimana di assenza. Quell'informazione fu del tutto soddisfacente per le signorine Browning, che negli ultimi mesi si erano tenute bene alla larga dalla casa dove avevano deciso di credersi indesiderate. Nelle sere d'inverno, le due sorelle avevano parlato spesso delle abitudini domestiche di Mr. Gibson e, avendo piccole congetture da esprimere, avevano trovato quell'argomento inesauribile, perché ogni giorno erano in grado di variarne le possibilità. Una delle loro domande era se Mr. e Mrs. Gibson andassero davvero d'accordo, un'altra se Mrs. Gibson fosse stravagante o meno. Ora, due lettere in una settimana di separazione dimostravano ciò che a quei tempi era considerata un'intensità di affetto coniugale molto decorosa. Non troppo, però, con la posta da 11 penny e mezzo. Una terza missiva sarebbe stata eccessiva. Le sorelle si guardarono l'un l'altra con un cenno d'assenso molto favorevole quando Molly menzionò la seconda lettera, che giunse a Hollingford proprio il giorno antecedente al ritorno di Mrs. Gibson. Avevano determinato tra loro che due lettere avrebbero manifestato la giusta quantità di buoni sentimenti e di opportuna concordia in seno alla famiglia Gibson. Di più, sarebbe stata una stravaganza. Una sola avrebbe rappresentato la mera esecuzione di un dovere. Tra Miss Browning e Miss Phoebe c'era stata quasi una discussione in merito a chi dovesse essere il destinatario della seconda lettera, se fosse arrivata. Sarebbe stato molto corretto da parte della moglie scrivere due volte a Mr. Gibson. Eppure, che bello se Molly avesse potuto avere la sua parte. Avete ricevuto un'altra lettera, dicevi, cara? Chiese Miss Browning. Direi che Mrs. Gibson questa volta l'ha indirizzata a te. È un foglio molto grande. Sul lato Cinzia ha scritto a me e tutto il resto è rivolto a papà. Ottimo espediente, non c'è dubbio. E cosa dice Cinzia? Si sta divertendo? Oh, sì, penso di sì. Hanno avuto ospiti a cena e una sera che la mamma era da Lady Kemnor, Cinzia è andata a teatro con i cugini. Parola mia, il tutto in una settimana. Questa io la chiamo dissolutezza. Insomma, giovedì erano in viaggio, venerdì avrebbero dovuto riposare, la domenica è domenica in tutto il mondo e devono aver scritto martedì. Beh, spero che Cinzia non trovi Hollingford noiosa, ecco, quando tornerà. Non lo credo probabile, commentò Miss Phoebe con un sorrisetto e un'occhiata saputa che stonavano con il suo gentile viso innocente. Voi incontrate molto frequentemente Mr. Preston, non è vero Molly? Mr. Preston? Esclamò Molly, arrossendo per la sorpresa. No, non di frequente. È stato ad Ashcombe tutto l'inverno, sapete, è appena tornato, solo per sistemarsi qui. Cosa ve lo fa pensare? Oh, un uccellino ce l'ha raccontato, spiegò Miss Browning. Molly conosceva quell'uccellino sin dall'infanzia. L'aveva sempre detestato e gli avrebbe volentieri tirato il collo. Perché la gente non poteva parlare chiaro e dire che non aveva intenzione di rivelare il nome dell'informatore. Ma quello era un trucchetto che le signorine Browning adoravano e, per Miss Phoebe, costituiva il vero e proprio vertice dell'arguzia. L'uccellino stava svolazzando un giorno per Heath Lane e ha visto Mr. Preston e una signorina, non diremo chi, che camminavano insieme in grande confidenza. Cioè, lui era a cavallo, ma il sentiero si alzava oltre la strada, proprio dove c'è il ponticello di legno che attraversa il ruscello. Forse Molly coinvolta nel segreto, noi non dovremmo chiederle niente, suggerì Miss Febe, notando l'estremo fastidio e lo sgomento di Molly. Non può essere un gran segreto, ribatté Miss Browning, lasciando cadere la formula dell'uccellino e assumendo un'aria di dignitosa reprimenda per l'interruzione da parte della sorella. Perché Miss Hornblower dice che Mr. Preston dichiara di essere fidanzato. In ogni caso, non con Cinzia, questo lo so per certo, disse Molly con una certa veemenza. E vi prego, basta con queste storie. Non sapete quale danno potreste arrecare. Odio così tanto certe chiacchiere. Di certo non fu molto rispettoso da parte sua esprimersi in quel modo, ma lei pensava solo a Roger e il disagio che certi racconti potevano causare, se mai fossero giunti al suo orecchio, nel centro dell'Africa, la fecero arrossire violentemente per la contrarietà. Senti, senti, Miss Molly, dimentichi che ho l'età per essere tua madre e che questo non è modo di parlarci. Chiacchiere addirittura. Veramente, Molly, vi chiedo scusa, fece Molly, pentita solo a metà. Direi che non era tua intenzione, rivolgerti così a mia sorella, disse Miss Febe, tentando di ristabilire la pace. Molly non rispose subito, desiderava spiegare la portata del danno che tanti pettegolezzi potevano suscitare. Ma non capite, continuò ancora rossa per la rabbia, che è sbagliato parlare di queste cose in questo modo. Supponiamo che uno dei due pensi a un'altra persona, e questo può capitare, sapete? Mr. Preston, per esempio, potrebbe essere fidanzato con qualcun altro. Molly, compatisco la donna in questione, proprio così. Non ho una grande opinione di Mr. Preston, dichiarò Miss Browning con tono di voce ammonitore. Infatti non ho idea, le era spuntata in testa. Beh, ma la donna o la signorina non gradirebbe sentire certe storie su Mr. Preston. Forse no. Purtuttavia, e prendimi in parola, costui è un gran farfallone e le signorine farebbero meglio a non averci molto a che fare. Magari quel loro incontro in Heath Lane è stata una casualità, tentò Miss Febe. Io non ne so niente, riprese Molly. E forse sono stata impertinente, però vi prego, non parlatene più. Ho le mie ragioni per chiedervelo. Si alzò perché i rintocchi dell'orologio della chiesa le avevano rivelato che era più tardi di quanto credesse e sapeva che ormai suo padre doveva essere rincasato. Si chinò a baciare il viso serio e immobile di Miss Browning. Come stai crescendo, Molly? Osservò Miss Febe, ansiosa di mascherare la contrarietà della sorella. Alta e dritta come un pioppo, come dice la canzone. Sta diventando più aggraziata, oltre che più bella, chiusò Miss Browning, accompagnandola fuori dalla stanza. Quando la ragazza se ne fu andata, Miss Browning chiuse per bene la porta e poi, sedendosi accanto alla sorella, disse a bassa voce: Febe, era proprio Molly con Mr. Preston in Heath Lane, quando Mrs. Goodenough li ha visti. Per carità, povera me! Esclamò Miss Febe, credendoci subito come al Vangelo. Come lo sai? Ho fatto 2 più 2. Non hai visto come è diventata rossa e poi pallida e come ha detto di sapere per certo che Mr. Preston e Cinzia Kirkpatrick non sono fidanzati? Forse non sono fidanzati, ma Mrs. Goodenough li ha visti passeggiare insieme, tutti soli soletti. Mrs. Goodenough, nel suo phaeton, ha solo attraversato Heath Lane all'altezza di Shire Oak, sentenziò Miss Browning. Sappiamo tutti quanto abbia paura di girare in carrozza, perciò è probabile che fosse quasi fuori di sé e i suoi occhi non sono i migliori neanche quando è ferma piantata per terra. Molly e Cinzia hanno 2 nuovi scialli a quadri identici e si fanno le bordure dei cappellini uguali e Molly è diventata alta quanto Cinzia da Natale scorso. Ho sempre temuto che rimanesse bassa e tozza, ma ora è alta e sottile come si deve. Garantisco io, Mrs. Goodenough ha visto Molly e l'ha presa per Cinzia. Quando Miss Browning garantiva lei, Miss Febe cessava di dubitare. Ella sedette per un po' in silenzio a riflettere, poi disse: Non sarebbe poi un legame così pessimo, sorella. Parlò molto mitemente, aspettando che l'altra condannasse quella sua opinione. Febe, sarebbe un legame tremendo per la fine di Mary Preston. Se avessi saputo ciò che so adesso, non l'avrei mai invitato per il tè lo scorso settembre. Perché? Cosa sai? Chiese Miss Febe. Miss Hornblower mi ha raccontato parecchio e certi fatti non credo che dovresti sentirli, Febe. Henwick, dove è nato, lui era fidanzato con una bellissima Miss Gregson. Il padre di lei ha fatto delle indagini, e ha preso così tante brutte cose su di lui che ha costretto la figlia a rompere il fidanzamento e la ragazza ne è morta. Terribile, commentò Miss Febe, debitamente impressionata. Inoltre, lui gioca a biliardo e scommette alle corse, e alcuni dicono che allevi cavalli da gara. Ma non è strano che il conte continui a tenerlo come suo intendente? No, forse no. È molto scaltro per quanto concerne la terra e molto acuto in tutte le questioni legali. E Milord non è tenuto a far caso, sempre se ne è al corrente, al modo in cui Mr. Preston si esprime quando ha bevuto troppo. Ha bevuto troppo. Sorella, ma non sarà mica un ubriacone? E noi l'abbiamo invitato per il tè! Non ho detto che è un ubriacone, Febe, replicò stizzita Miss Browning. Un uomo, talvolta, può bere troppo, anche senza essere un avvinazzato. Non voglio più sentirti usare certe parole, Febe. Miss Febe tacque per un po' dopo questo rimprovero. Poi riprese. Spero proprio che non fosse Molly Gibson. Puoi sperare quanto vuoi. Ma io sono sicurissima che si tratta di lei. In ogni caso, è meglio che non diciamo nulla a Mrs. Goodenough. Lei si è messa in testa Cinzia e noi lasciamogliela là. Ci sarà tempo per portare a galla certe storie su Molly quando sapremo che dicono il vero. Mr. Preston, potrebbe andar bene per Cinzia, che è stata educata in Francia, sebbene i suoi modi siano così graziosi, ma questo potrebbe averla resa poco esigente. Lui però non deve avere e non avrà Molly, se io entro in chiesa e lo proibisco. Ma temo che tra loro ci sia qualcosa. Dobbiamo stare in guardia, Febe. Io sarò il suo angelo custode, anche se lei non vuole.